Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1852. Scontro sui matrimoni civili, si dimette D'Azeglio, Cavour a capo del governo. In Francia rinasce l'impero alla guida del paese, l'erede di Bonaparte, Napoleone III. E a Parigi, dopo una censura di 3 anni, via libera alla rappresentazione della Signora delle Camelie. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In una fase di altissima tensione tra Regno di Sardegna e Vaticano, dopo il via libera di 2 anni fa alle leggi Siccardi, il Parlamento ha approvato una legge sui matrimoni civili. Le conseguenze politiche si sono fatte sentire subito. È arrivata la condanna della Chiesa, il re Vittorio Emanuele II si è rifiutato di firmare, convinto anche da una lettera inviatagli dal Papa nella quale il pontefice lo pregava di non sanzionare quella legge fertile di 1000 disordini. Così D'Azeglio e i suoi ministri si sono dimessi e fallito il tentativo di Balbo di formare un governo. L'incarico è stato dato a Camillo Benso. Il conte di Cavour è in piena ascesa, ma sentiamo il ritratto del nuovo primo ministro. Il conte di Cavour è prima di tutto un uomo pragmatico, un riformatore, questo è certo, un liberale, in dubbio, e anche un sostenitore della causa nazionale. Tuttavia, chi lo ha seguito in questi anni di vita parlamentare a Torino non ha potuto fare a meno di notare che il suo profilo politico sfugge alle facili definizioni come conservatore o radicale. Ufficiale del genio, sindaco di Santena, il giovane aristocratico torinese ha viaggiato molto, nella Francia di Luigi Filippo, per esempio, di cui ha conservato una buona opinione. Ha promosso riforme agricole e miglioramenti tecnici che hanno portato efficienza nei suoi poteri e nuove idee nel settore. Anche per questo ha conquistato il ruolo di ministro dell'agricoltura e del commercio, chiudendo accordi con Belgio, Inghilterra, Grecia, le città anseatiche, l'Unione Doganale Tedesca, la Svizzera, i Paesi Bassi e persino l'Austria. Ha riformato i dazi e portato il Piemonte verso il libero scambio. Ma è stato anche un uomo di finanza e da ministro del settore ha sottratto il regno dalla dipendenza dai Rothschild. Ha promosso la realizzazione di linee ferroviarie. In Parlamento poi si è mosso con audacia e spregiudicatezza, arrivando dove è ora, nonostante alcune sconfitte. Prima con il centrodestra, poi per conquistare la poltrona di D'Azeglio ha stretto con la sinistra moderata di Rattazzi un patto che esclude le estreme. Ora però deve dimostrare quello che vale. Paolo Piacenza al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. In Francia si è sostanzialmente completata la svolta autoritaria che era stata annunciata dagli eventi dell'anno scorso. Il 14 gennaio Luigi Napoleone Bonaparte ha emanato la nuova Costituzione, largamente ispirata a quella che volle lo zio 50 anni fa. È una Costituzione accentratrice che restaura esplicitamente l'impero e che ha ricevuto il via libera in un plebiscito del 21 novembre. Tutto il potere esecutivo è concentrato nello Stato, che è riassumibile nella persona dell'imperatore stesso, ed è lui naturalmente il nuovo imperatore con il nome di Napoleone III. E noi restiamo in Francia, dove la censura non aveva fatto passare fino al febbraio scorso la riduzione teatrale dello scandaloso romanzo di Alexandre Dumas, La signora delle camelie, storia dell'amore tra una cortigiana e un giovane di buona famiglia. Si dice peraltro che il personaggio principale sia ispirato a Marguerite Duplessis, con la quale lo stesso Dumas ebbe una relazione. In molti ritengono che sia comunque un'opera scabrosa, eppure da Venezia arriva notizia non confermata che il grande compositore italiano Giuseppe Verdi ne starebbe studiando una versione operistica. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate a scaricare il nostro foglio quotidiano sul sito www.radio24.it, scriveteci su Facebook o a gazzettino@radio24.it e visitate il nostro blog. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.